10. Estratto del Daily Courant del 5 gennaio 1776. Sui criminali travestiti da indiani che tornano a imperversare nelle strade di Londra. Nell'ultima edizione dell'anno appena trascorso pubblicammo la lettera di un gentiluomo di Mayfair che raccontava la feroce aggressione e rapina da egli subita a opera di presunti indiani Mohawk. Da allora numerosi lettori ci hanno scritto mettendo in dubbio l'autenticità della lettera, o perlomeno dei fatti in essa descritti. Umili servitori della verità, siamo dunque risaliti all'autore, abbiamo verificato diverse circostanze ed eravamo sul punto di pubblicare un'accorata difesa della sua onestà, quando è giunta alla nostra sede di Grub Street una notizia che, da sola, vale più di 100 difese. Il 1 gennaio scorso, poco dopo la mezzanotte, una squadriglia di indiani ha fatto irruzione alla taverna Occhio Solo di Tottenham Court Road, devastando i locali a colpi d'ascia e di freccia, ferendo diverse persone e infine uccidendo, col barbaro rituale dello scalpo, un certo James Hotburn di anni 31, residente a Soho. Il locandiere e alcune donne presenti hanno già dato testimonianza dell'accaduto dinanzi ai giudici dell'Old Bailey. Inutile dire che i protagonisti di queste vicende non possono essere i medesimi indiani attualmente in visita nella nostra capitale. Il pensiero è volato subito al tristemente noto Mohawk Club, che i londinesi rammentano ancora con raccapriccio e che noi, a uso dei lettori più giovani o smemorati, ricorderemo, anche qui, con poche righe. Nella primavera del 1712, 2 anni dopo la visita di Re Hendrik alla regina Anna, un gruppo di scellerati, che s'era battezzato appunto Mohawk Club, prese a infestare la notte di Londra a caccia di passanti da molestare, con metodi di rara crudeltà. Tra questi, chiudere la vittima dentro una botte e rotolarla lungo Snow Hill. Infilzare le guance dei malcapitati con ami da pesca per poi trascinarli in giro con una lenza. Rovesciare carrozze sopra cumuli di immondizia. Tagliare mani e nasi. Schiacciare il naso di qualcuno e tirargli fuori gli occhi con le dita, il cosiddetto supplizio del leone. Costringere la vittima a far capriole e piroette agitandogli una spara tra le gambe, supplizio del maestro di ballo. Rivoltare le signore a testa in giù e commettere indecenze sulle loro gambe così esposte, supplizio dell'acrobata. Pare che dietro la mascherata si nascondessero alcuni rampolli della nobiltà cittadina in cerca di distrazioni. Oggi è dato credere che si tratti piuttosto di pericolosi malviventi. Panifex.